Dunque, lei dice: io non sono un escort, non ho mai fatto la escort. Beh, vedendo quello che stanno continuando a dire in un anno sulla mia persona, bene, oggi io dico che io non ero la escort, ma le escort erano le altre. No, ma io non sto parlando di quella serata là, tutte quelle che hanno preso le buste. Però mi scusi un attimo, non sto parlando solo di quella serata a Palazzo Grazioli. In generale, lei faceva la escort ogni tanto oppure no? Ascolti, io l'ho già detto, io ero lì in qualità di escort per la cena, non sì, per andare ho capito, a letto ma non sto parlando di Palazzo Grazioli, invece sto parlando in generale. Palazzo Grazioli si rimaneva e si aveva la busta da 10.000 euro, quindi chi è rimasto è un escort e chi è, tutte le altre che sono rimaste sono delle escort. Anche lei è rimasta invece poi una notte o no? No, io sono andata via la prima sera. La prima sera, poi è rimasta però. La seconda sera sì, ma non certo in qualità di escort e per prendere la busta. E perché è rimasta? Io l'ho già spiegato al mondo intero perché sono rimasta. Lo spiega anche a noi. Perché il presidente aveva preso a cuore la mia situazione, il suicidio di mio padre, il mio progetto, ed era molto interessato a me. Era una persona molto attenta a questo mio problema sin dalla prima sera.